Nel corridoio, un minuto più tardi. Dunque, 44, 45, 46. Ah, ecco la mia camera. 47. Esatto. E questa è? Una chiave. La mia chiave. Bravissima! Incredibile! Bella e intelligente. Lorenzo. Ok, scusi. Allora, che ore sono? Ah, le 7. Se non è troppo stanca, ceniamo insieme. Well, yes, grazie, but I need to get changed. Nessun problema. Ci vediamo alle 9, va bene? 9 o'clock. Non è troppo tardi. Troppo tardi? No. In Italia non è troppo tardi. Ok, then. Va bene. A dopo. Sì, a dopo. Ma dove? Dove? Alla reception. Alla reception, ok. Arrivederci. Arrivederci.